9 in punto, la versione di Oscar. Eccoci tornati in studio, Oscar Giannino vi saluta e chiede che interveniate all'800 24 00 24 sul tema del giorno, e sarà una specie di piccola maratona quotidiana obbligata oggi per interrogarsi su a che punto siamo dopo un anno dal fallimento di Lehman Brothers. Abbiamo davvero voltato pagina e in questa nostra puntata però noi non ci occupiamo tanto per una volta della ripresa dell'economia reale, ma ci occupiamo del fenomeno proprio dell'intermediazione finanziaria che andò in crisi dopo segnali che erano evidenti nell'estate del 2007, per interrogarci insieme a alcuni esperti e per sapere anche la vostra opinione, le vostre domande intorno al fatto se proprio un'intermediazione finanziaria e bancaria, ma non solo bancaria, si può ritenere che a un anno dal terrore che si è immediatamente trasmesso ai mercati in quelle settimane successive, si può ritenere non solo che abbiamo evitato il peggio, perché questo è un fatto assodato, lo abbiamo evitato il peggio, certo, sia pure a costo di oceanica liquidità immessa dai regolatori nel mercato, nei mercati, e soprattutto a costo di interventi diretti e indiretti di salvataggio e di garanzia del capitale pubblico nelle banche, banche molto importanti di tutto il mondo, che costeranno moltissimi punti di PIL di deficit di debito pubblico nei prossimi anni. Quindi il peggio lo abbiamo evitato, ma la domanda è: abbiamo posto le premesse quantomeno per principi e regole dell'intermediazione finanziaria che possano preservarci in futuro da ciò che per convergenza abbastanza larga possiamo ritenere essere alla radice di quello che esplose un anno fa? Ecco, la mia risposta a questa seconda domanda è: mi pare proprio di no, ma non conta tanto la mia opinione quanto quella che approfondiremo con i nostri ospiti che vado a presentarvi. Abbiamo innanzitutto il professor Giacomo Vaciago, che insegna economia politica alla Cattolica qua a Milano. Buongiorno professor Vaciago. Buongiorno a tutti. Abbiamo Donato Masciandaro, che è il direttore di economia politica del Dipartimento. Pronto? Pronto? Ho avuto un problema nella lingua e non ho capito se era caduta la linea. Buongiorno Masciandaro alla Bocconi. Buongiorno. Mi perdoni, poi la ripresenterò, ma credevo fosse andato via il collegamento. Buongiorno Masciandaro. Buongiorno a voi. E Ugo Bertone, giornalista che segue da molti anni i mercati finanziari, oggi scrive per Libero e per Il Foglio, è stato a lungo direttore di Finanza e Mercati alla Stampa, eccetera eccetera. Buongiorno Bertone. Buongiorno Oscar. Allora, professor Vaciago, oggi dovessi dare un premio al quotidiano italiano che sicuramente fa meglio, offre ai suoi lettori molto materiale, è La Stampa di Calabresi, che offre molte molte pagine su queste. Io comincio da un aspetto, quello monetario per così dire, e poi andiamo invece alle regole, ai principi bancari e dell'intermediazione finanziaria. Mi pare che almeno sulla risposta monetaria alla crisi più o meno ci sia una convergenza abbastanza ampia, cioè in definitiva il testo sacro di Milton Friedman, La storia della politica monetaria americana, che iniziò a mettere più o meno tutti d'accordo, i keynesiani e anti-keynesiani, un po' di decenni fa, sui gravi errori nel 29, è stato adottato e seguito un po' da tutti, quindi tantissima liquidità, e si inizia a pensare a come poi non troppo avanti drenarla. Da questo punto di vista lei pensa che la lezione del passato è stata una lezione ben posta in essere dai regolatori monetari, sia pure in maniera diversa, negli Stati Uniti e in Europa? Ma certamente i pompieri, quelli che arrivano su un incendio, hanno funzionato, hanno dato tanta liquidità e ancora adesso ne stanno dando talmente tanta a costo zero che la redditività di chi impiega quei soldi è ritornata a crescere. Se ti regalano dei soldi per un anno, tu qualcosa ne fai e torni a guadagnare. Le banche sono tornate a guadagnare grazie ai pompieri delle banche centrali. Però professore, c'è chi dice che dopo tanto parlare delle bolle, le bolle, in realtà dal mitico 10 marzo di quest'anno, da quando i listini in Cina, negli Stati Uniti, in Europa hanno ripreso a salire sfidando ogni legge di gravità, perché i rapporti prezzi utili a volte sono inconcepibilmente troppo elevati, quindi secondo me siamo di nuovo in bolla, questa è mia opinione, ed è inevitabile che queste bolle siano proprio alimentate da questa liquidità tanto oceanica che all'economia reale non va, e che a quel punto prende la strada di impieghi, io non li voglio dire speculativi, ma insomma ad alta redditività, perché vanno sui listini, o no? Beh, diciamo che le borse hanno recuperato da marzo a luglio ciò che avevano perso da ottobre a febbraio, In altre parole, abbiamo digerito le cause del fallimento di Lehman e abbiamo la certezza che un'altra Lehman, un errore così madornale, i banchieri centrali non lo faranno più. Quindi è la grande paura che è rientrata, ma siamo ancora a dove eravamo un anno fa con le borse, quindi per definizione il precedente anno di recessione non l'abbiamo mica ancora recuperato. È la grande paura che è venuta meno, perché siamo sicuri adesso che un'altra Lehman non ci sarà. Ha creato troppi guai. Però il problema vero è ricostruire il sistema, e qui, al di là dei tanti bei rapporti che ho letto, temo che i governi e i parlamenti siano ancora dominati dal vecchio, cioè non abbiano capito la lezione sistemica. Avevamo un sistema troppo fragile e stupisce che si sia rotto dopo tanti anni di crescita e non prima. Quando costruiamo il nuovo sistema finanziario globale più robusto? Una domanda che giro a Masciandaro con un approfondimento. Si diceva che erano alcune scelte fatte una ventina, una quindicina di anni fa nell'ambito regolatorio americano ad avere potentemente incentivato un sistema di intermediazione finanziaria a redditività del capitale sempre più elevato e sempre più ad alta leva e sempre con meno congruità patrimoniale rispetto ai rischi assunti e soprattutto intermediati e reimpacchettati al mercato attraverso prodotti finanziari derivati e reingegnerizzati, in cui si perdeva la possibilità di identificarne il rischio vero perché tanto bastava un bollino dei rating. Detto tutto questo, a un anno di distanza la leva finanziaria delle banche in Europa è ancora più elevata di quanto fosse più di un anno fa. In realtà grandi criteri diversi in merito a come identificare una banca troppo grande perché non fallisca, il famoso problema too big to fail, non mi pare che siano stati adottati. Siamo in un cammino, vedremo cosa succede a Pittsburgh al G20 per definire alcuni criteri in merito per esempio a quale cuscino di capitale un pochino più spesso, più responsabilmente congruo dare alle banche e a chi prende i soldi dei depositanti, però anche lì vere regole né comuni tra Europa e Stati Uniti né assunte o negli Stati Uniti in Europa sono state assurde. Sono un po' troppo pessimista, Masciandaro, nel ritenere che ciò che non è cambiato è il fatto che i regolatori, a cominciare da quelli americani, sono ancora totalmente captive, sono più espressione del mondo della grande intermediazione finanziaria che fa gli utili e ha continuato a farli anche quest'anno, più facendo il trading di titoli ingegnerizzati finanziari che attraverso l'attività ordinaria di banca. Non è questo il punto, non siamo figli di 15 anni di cattura del regolatore da parte di quell'industria fatta in quel modo? Proiettando la prima pagina di un quotidiano italiano di un anno fa, in cui c'era un editoriale che diceva le crisi normali di un mondo nuovo. In realtà quello che abbiamo scoperto è che è una crisi straordinaria e di un mondo che vuol tornare normale. Professore, se sta usando il viva voce c'è un eco, oppure deve parlare più vicino, non so come dire. Proviamo a cambiare un po' l'emissione perché c'è un eco quando parla. Vada. Adesso meglio. Mi senti adesso? Adesso molto meglio. Dicevo, non so se si è sentito quello che io ho detto, che un anno fa un quotidiano italiano intitolava un editoriale le crisi normali di un mondo nuovo. In realtà abbiamo scoperto che la crisi era straordinaria e stiamo cercando di tornare a un mondo normale, e quello che colpisce molto i ragazzi quando gli racconto la storia di questi due anni è che alla fine le regole del gioco sono ancora oggi esattamente le stesse. Cioè, quello che va sottolineato è che tutto è nato perché un fiammifero, i mutui subprime, sono stati buttati in un bidone di benzina in cui c'erano due combustibili. Uno lo avete già ampiamente e ben commentato con Giacomo Vaciago, e la parte di politica monetaria. che è ancora di tipo molto, molto accondiscendente. L'altra è un disegno assolutamente inadeguato delle regole e del disegno anche della vigilanza, di cui si parla di meno, ma che a me preoccupa anche di più, perché in un mondo in cui si definiscono delle regole, ma ci sono, e facciamo l'ipotesi che anche siano delle regole comuni, ma ancora il disegno della vigilanza è frammentato, il vero problema è tener conto anche di come si disegna l'architettura dei controlli. Abbiamo imparato che c'era poco capitale, abbiamo imparato che c'era troppa leva finanziaria, abbiamo imparato che troppi supervisori fanno male alla vigilanza. Se guardiamo a un anno di distanza, tutto è rimasto assolutamente come prima. E le regole, ci sono alcuni principi generali che vedremo come verranno declinati, ma finora non le sono stati, e c'è un preoccupante silenzio sul fronte della vigilanza. I due progetti grandi, il progetto Obama e il progetto europeo sulla vigilanza, sono due progetti deludenti, di Realpolitik, sono dei progetti che ripercorrono le stesse strade, perché in questa maniera si ha il consenso dei vigilanti, nessuno perde la poltrona, ma la struttura di fondo è sempre la stessa. Quindi, per replicare alla sua domanda, io non credo che lei sia pessimista, io credo che lei sia assolutamente realista. Ora chiedo a diversi ascoltatori, ci potete spiegare perché in realtà non si corre più il rischio di un'altra Lehman? La mia risposta molto semplice è che, vedendo lo stato degli attivi patrimoniali delle banche, non è tanto per quello che si evita il rischio, cioè non è che le banche sono diventate tutte virtuose, il problema è che è stato assunto un principio dopo le conseguenze del fallimento di Lehman, un principio che è venuto più dall'Europa che dagli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti quel giorno si pensò di dire ogni tanto facciamone fallire una, è la bellezza del mercato, e invece l'Europa dopo pochissimi giorni disse no, qui da noi non deve fallire nessuna banca sarà lasciata fallire di quelle che abbiano un impatto sistemico micro macro considerato troppo elevato, perché è meglio metterci tutti i soldi del mondo ma costa meno salvarle a costo del contribuente piuttosto delle conseguenze che è in grado di evitare un grave fallimento. E questo è il motivo vero per cui bisogna immaginare con una certa ragionevole presunzione che non ci saranno più casi Lehman in futuro. Domanda per Bertone. Io condivido molto quello che ha scritto un nostro collega Giorno Cera due giorni fa sul New York Times. Ha la domanda: ma perché allora fu fatta fallire Lehman Brothers quando invece sia prima Bear Stearns sia dopo AIG furono potentemente salvati a spese del contribuente? Cosa di è successo quel giorno? Cosa che nessuno fino a questo momento, ci sono tante teorie, ma nessuno ha saputo ben spiegare. Io temo che abbia ragione il nostro collega Nucera, cioè serviva alla Fed e serviva all'epoca ministro del tesoro americano Hank Paulson un evento di rottura per andare in congresso e chiedere: signori, dateci poteri speciali di guerra perché abbiamo bisogno di almeno 700-800 miliardi di dollari che utilizzeremo senza dirvi come e per chi, perché questo è quello che avvenne nei giorni successivi, pur di salvare il sistema finanziario. Però questa è la mia impressione. Tu che pensi? Che cosa avvenne quel giorno? Perché solo quel giorno sì un fallimento e poi no prima e dopo? Allora, ricordiamo anche il titolo dell'editoriale di Nucera, che è Lehman doveva fallire per salvare l'economia globale. Questa è la tesi che è sostenuta da una parte del capitalismo americano, a cui si può opporre anche lo splendido saggio di Alesina pubblicato da Sole di ieri, che dice è stato un grosso errore perché non si devono salvare i capitalisti, si deve salvare il mercato. Quindi il problema non è aver fatto fallire Lehman, il problema è che quella manovra servì per avere i soldi per salvare AIG e quindi indirettamente rendere possibile il salvataggio di Goldman Sachs e di Merrill Lynch, che sono due leve estremamente più importanti del sistema. Goldman Sachs è il centro dell'economia globale, Merrill Lynch, in estrema sintesi, è il depositario di buona parte dei fondi pensione degli americani, quindi potenzialmente sarebbe stato devastante. Che cosa è successo? Quindi tradotto per chi non è molto esperto di K401, alcuni pensano che appunto Lehman, siccome non aveva in pancia i piani privati previdenziali che sono diventati sempre più fondamentali per la sicurezza di medio periodo di milioni di lavoratori americani e che spesso coinvolgono nella loro garanzia lo stesso patrimonio delle imprese presso cui lavorano, ecco, Lehman Brothers non aveva di queste robe in pancia e quindi fu fatta fallire. Altre come Merlin ce l'avevano e quindi il regolatore se ne guardò bene. Mi scusi se l'ho interrotta, ma no, si figuri. Guardi, per essere più cinici, una spiegazione più sotto, più da retroscena, è anche che Lehman Brothers pesava molto meno nel mercato finanziario americano ed era molto più esposta verso Europa e verso Asia. Non dimentichiamo che Lehman è stata tutto sommato la madre delle privatizzazioni italiane e di tante iniziative in casa nostra, quindi si pensava un po' cinicamente: se fallisce Lehman i problemi sono più degli altri che degli Stati Uniti, con ciò trascurando, e questa è stata una delle lezioni di questa crisi, la velocità di trasmissione dell'intero sistema dell'economia globale. Se c'è una cosa che tecnicamente ha colto impreparato tutti quanti è la velocità di trasmissione, per esempio è l'efficienza del mercato interbancario. Ma per tornare alla sua domanda, che cosa successe in quei giorni? Successe che a Lehman Brothers, che era guidata da un signore molto antipatico, il Tesoro e la Federal Reserve negarono la possibilità di trasformarsi in banca commerciale, in banca normale, quindi di poter godere dei sostegni pubblici previsti dal Fondo dei Depositi, e venne tutto sommato anche sfilata la possibilità di farsi comprare dalla Bank of America, perché la stessa Bank of America, si saprà poi nei mesi successivi, fu vivamente spinta a dedicarsi a Merrill Lynch. Ebbene, e quindi un gioco insomma incrociato di pressioni politiche, perché qualcuna di queste grandi, le cinque investment bank che facevano il mercato mondiale, si trasformasse in banca di deposito commerciale e quindi avesse pieno accesso alle garanzie, perché qualcun'altra invece venisse comprata da una banca commerciale e perché una di quelle cinque invece fallisse. Eccoci tornati in studio con Giannino, che ha alcuni ospiti per iniziare questa riflessione che durerà a lungo su questa Radio 24 intorno a Lehman Brothers un anno dopo. Vaciago, l'aspetto monetario abbiamo detto più o meno unisce tutte le scuole e tutti dicono si è fatto quello che andava fatto. Sulle regole e principi nuovi invece ancora non ci siamo. Arriviamo alle domande un po' che comprensibilmente poi la gente comune si fa. Per esempio, molti si chiedono, ma insomma oramai siamo da un anno e mezzo, due anni a condizioni di politica monetaria, di costo del denaro offerto alle banche bassissimo, e in termini negativi addirittura, cioè i tassi di interesse rispetto a come è l'indice dei prezzi sono negativi, quindi alle banche costa molto poco, non costa il tasso bassissimo dei regolatori, però il funding in teoria costa molto poco, abbastanza, non dico che siamo ai record negativi, ma costa poco. Allora, è possibile mai, si chiede tanta gente, che poi le banche si possano approvvigionare a un costo basso, impieghino il più delle loro risorse magari in titoli, in obbligazioni che rendono, inizio a rendere 6, 7, 8, 9 punti per cento a loro quando le comprano loro nelle emissioni corporate di grandi aziende eccetera eccetera, poi negano gli impieghi alle imprese e alle famiglie, perché poi continuano a negare le condizioni di restrizione di credito, ci sono e le testimoni ancora l'abbi. Questa domanda popolare molto diffusa è giusta o sbagliata secondo lei, professor Vaciago? È giusta, ma richiede una risposta strutturale. Non credo che basti la ricetta populista del frenare i compensi ai banchieri. Questa è comprensibile e inutile. Dobbiamo riflettere soprattutto su questa commistione mercato e credito, banca e finanza, che ha spiegato la grande redditività del capitale bancario negli anni degli ultimi vent'anni, ma che chiaramente significa che il trading, le posizioni speculative, la finanza rende più che prestare soldi all'artigiano all'angolo. E la separazione strutturale tra le due attività, che era la risposta della crisi degli anni 30, attenzione, stiamo ripassando la storia. La ricetta Glass-Steagall all'inizio degli anni 30 era esattamente la diagnosi che la grande crisi del 29 nasceva dalla commistione credito-finanza. La grande crisi del 2008-2009, un calo di produzione industriale del mondo del 30% in 6 mesi, cosa volete di più come disgrazia? Beh, questa grande crisi è la reazione esattamente all'abolizione del Glass-Steagall. Allora dobbiamo riscoprire che i rimedi devono essere strutturali. Fare il banchiere, cioè valutare a chi prestare soldi, è un mestiere ben diverso dal fare la finanza, cioè dove impieghi anche per pochi secondi la tua liquidità. Ma Sciandaro, io interrompo un secondo, Vacciago. Ma Sciandaro, lei pensa che bisognerebbe tornare a una separazione netta? Per esempio, Paul Volcker, grandissimo banchiere, secondo me incomparabilmente più bravo dei suoi successori fino a questo momento, la guida della Fed, perché a un certo punto alzò i tassi di interesse e venne a capo dell'inflazione senza tanto sentire la politica che frignava, perché i banchieri centrali devono essere capaci di usare tassi dell'interesse a volte in controtendenza rispetto quelli troppo facili. Paul Volcker ha detto a un certo punto in questi giorni: bisogna dire le cose come stanno, bisogna legare la licenza bancaria a chi fa trading finanziario come core della propria attività, come focus centrale della propria attività, e se ricava i propri utili soprattutto da quello. Allora non è più una banca, leviamogli la licenza bancaria, leviamogli le garanzie. Ricetta drastica che mi pare l'esatto opposto di quello invece che sta avvenendo negli Stati Uniti. Lei che pensa, professor Masciandaro? Io credo che Giacomo abbia ragione quando dica che occorre ripensare il tutto, e che in questo momento si sta facendo l'esatto contrario, perché non ci sono altre strade per gli Stati Uniti. Io quello che voglio dire è che tutto è nato negli Stati Uniti e tutto finirà negli Stati Uniti dal punto di vista delle regole, quando gli Stati Uniti potranno permetterselo, se mai potranno permetterselo. Nel momento in cui occorre ripensare la struttura dell'attività bancaria, di che cosa significa fare banca, significa anche ripensare a quale sarà il rendimento atteso di queste aziende. Significa cioè davvero ripensare ad un mondo nuovo. Ecco, io credo che in questo momento gli Stati Uniti non possano permetterselo. Sono un paese con un grande indebitamento privato che si accoppia oggi ad un grande indebitamento pubblico. Il ripensamento delle regole deve partire da che cos'è il capitale e quanta leva si può fare. Questo tipo di riflessioni in questo momento, lo ripeto, gli Stati Uniti non possono permetterselo. Quindi occorre aspettare. Sulle regole speriamo che almeno vengano definiti questi principi, cioè che cosa significa tornare indietro. Sul sistema della vigilanza purtroppo non si vede nulla, e si vede invece l'esatto contrario. Si vedono soggetti che dovrebbero essere indipendenti dalla politica, le banche centrali, sempre più coinvolte nella supervisione. E questo credo che sia un errore, è figlio dell'emergenza, perché le banche centrali hanno dovuto iniettare la liquidità a più non posso. Speriamo che la situazione di emergenza non si trasformi in normalità, perché poniamo le basi per una nuova crisi. Un ascoltatore, Mauro da Pisa. Prego Mauro. Buongiorno a lei, buongiorno. Grazie della parola. Due riflessioni. Una è stata detta nella trasmissione: dove erano i governanti, dove era Bush per quanto riguarda la banca centrale, dove era Greenspan quando preventivamente potevano in qualche modo prevedere un disastro del genere. E la preoccupazione, l'ha detta prima il professore, non mi ricordo il nome, mi perdono e chiedo scusa, cosa stanno facendo? Perché secondo me a distanza di un anno non è successo assolutamente niente, cioè le banche stanno facendo gli utili, perché sono loro che stanno facendo aiuti attraverso la finanza, attraverso il ritorno in borsa. La terza riflessione, vi ringrazio, è questa. Questa grossa attività si trasformerà probabilmente in un ritorno all'inflazione, per cui dovranno aumentare i tassi, aumenteranno i mutui, per cui ho l'impressione che in estrema sintesi il popolo, definiamolo così, risparmiatore, che all'andata di questo disastro ha avuto la peggio, l'avrà anche al ritorno, perché sono convinto che tutto poi si riscaricherà. Grazie a Mauro. Beh, in effetti i tassi di interesse non possono restare per tempo indefinito negativi, questo è poco ma è sicuro. È anche un po' sbagliato pensare che quando riprenderanno a crescere, e vedrà che avverrà gradualmente comunque, perché nessuno è così matto da voler strangolare una ripresa nell'economia reale che stenta così tanto come stenta quella in corso, nessuno è così matto da volerla mettere a rischio alzandoli troppo verticalmente e rapidamente i tassi. Però quando i tassi risalgono bisogna stare attenti alle conseguenze. Non è che si può pensare che debiti di lungo periodo bisogna assumerli con la leggerezza di pensare che, siccome li si è assunti quando i tassi di interesse erano negativi o bassi a livello record, resteranno così per decenni. Questo bisogna un po' anche tutti noi imparare ad avere un minimo di capacità di comprensione dei fenomeni della finanza, dell'economia, perché altrimenti io penso molto spesso le famiglie, che spesso sono raggirate dalle banche, da chi gestisce il risparmio eccetera, ma a volte ci mettono del loro nell'essere un po' troppo ingenui nel credere che i fenomeni, i momenti favorevoli a sé siano di durata indefinita. Bertone, negli Stati Uniti questa volta sono diventati un po' europei anche su questo tema dei bonus, delle condizioni dei banchieri eccetera eccetera, però sono diventati europei nell'inconseguenza delle polemiche, cioè è una polemica che noi giornalisti alimentiamo per tenere buona la gente, in realtà sapendo che non avverrà nulla. Che è un po' singolare questo insistere così tanto sul tema dei bonus. Ieri c'era un articolo sul Corriere della Sera, oggi ce n'è un altro sul Corriere della Sera. In realtà poi, se andiamo a vedere, le grandi banche contano molto nei gruppi editoriali italiani e non mi risulta che, al di là di tutti questi articoli, siano favorevoli a discipline draconiane di questa vicenda. Lei che pensa? Ma io penso che questo sia, come ha detto giustamente il professor Vaciago, più una sorta di foglia di fico politica che un vero e proprio problema. Tanto per cominciare, quando parliamo di stipendi, di super bonus, noi pensiamo ai vari passer, a Profumo, eccetera. In realtà a guadagnare in questi casi sono soprattutto i trader, e sono la punta dell'iceberg di una situazione che è profondamente anomala, che è pazzesca. Cioè, onestamente, in questo momento che succede? Esiste una grande liquidità. Questa liquidità non finisce al settore produttivo. Pare che il totale del credito mondiale alle imprese sia grosso modo un quarto di 2 anni fa. Finisce però per alimentare quindi i settori dove è più facile guadagnare, con minor rischio per giunta a questo punto, e quei derivati che 6 mesi fa venivano considerati la farina del demonio oggi vanno benissimo e continuano ad alimentare i soldi dei trader di Goldman Sachs, di Merrill Lynch e così via, ma anche di banche europee. A questo punto si capisce che la questione dei bonus è più il sintomo di una malattia generale. L'altro giorno sul Financial Times è stato avanzata un'analogia molto divertente, è un po' come la situazione del mercato del calcio, dove tutti siamo d'accordo a dire che si va verso cifre impossibili, gli stipendi sono enormi eccetera, però tutti inseguono l'altro per paura di perdere l'ultimo treno. In questo momento tutti sono convinti che si sta creando una bolla, che non si è risolto nulla, ma nessuno vuole scendere dal treno un giorno prima. E a questo punto effettivamente potrebbe quasi valere la regola dell'UEFA sul Chelsea, cioè facciamo una bella punizione, blocchiamo quello, facciamo un bel gesto autoritativo. In un certo senso la Borsa di Londra, il presidente della FSA che regola l'attività finanziaria inglese ha gettato una provocazione di questo tipo parlando di una tassazione su tutte le transazioni finanziarie. Lord Turner, a me è sembrato più, devo dire, una battuta politico-elettorale relativa alla situazione britannica, che, vista anche la reazione che ha avuto tutta la business community britannica di fronte alle parole di Lord Turner, che appunto ha evocato una specie di maxi Tobin tax per tutto il sistema finanziario. Vaciago, dal punto di vista della moneta, noi siamo tradizionalmente un po' più rigorosi di quello che accade con la Fed. Diciamo, la BCE è stata più lenta e più graduale, tanto nel far cadere i tassi nell'estate 2007, quanto poi nel seguire fino in fondo le decisioni della Fed. Quindi la Banca Centrale Europea è più rigorosa, più attenta alle conseguenze di decisioni troppo concentrate nel tempo. Però dal punto di vista della vigilanza non mi pare che l'Europa possa vantare meriti molto maggiori in questo anno rispetto alle innovazioni vere per mettere pulizia nel sistema bancario, perché la leva delle banche europee attualmente è più alta di quella americana, se parliamo di grandi istituti, ed è un po' terribile, detta così o no? Sì, e poi soprattutto la riflessione sul che fare sul piano delle regole della vigilanza è ancora rimasta a livello di bei rapporti più o meno accademici. Attenzione, l'Europa non ha un modello di vigilanza bancaria come tale, è frammentato in America il modello di vigilanza sulle banche. In America ancora abbiamo organi statali e organi federali e una moltiplicità di organi, e l'Europa ovviamente, non avendo mai fatto una riflessione, neppure quando è partito l'euro per la zona euro, sulla necessità di una vigilanza unica, abbiamo copiato il peggio dell'America, un sistema frantumato. Allora anche qui è urgente fare una riflessione strutturale. Quanto possiamo permetterci di rimanere con un sistema in cui gli onesti devono rispettare 27 regole diverse, i furbi fanno arbitraggi tra regolatori e domiciliano le attività dove più conviene perché minore è la vigilanza. Riunioni che realmente ricordano quelle dei maghi. Tutta la nostra antropologia è fatta da maghi, Apollonio, Merlino, Fausto stesso, pure molto rispettabile. Prospero, il mago di Oz, Harry Potter, naturalmente c'è anche Mandrake, il mago Witz, Satanic, devo dire anche il mago Thelma. Le riunioni degli economisti sono esattamente queste. Allora, il mago Apollonio farà apparire l'inflazione, ma ne impedirà la trasformazione in deflazione. Grandi applausi e riconoscimenti a questo prodigio magico. Quello che colpisce è che nessuno di questi ha mai chiesto scusa. Ecco, questo, con le parole di Giulio Tremonti, è un altro dei grandi aspetti del dibattito. Ma chi l'aveva, nessuno l'aveva previsto, ma gli economisti cambiano mestiere. Io devo dirvi la verità, considero un po' anche queste delle facili polemiche. Comunque vi invito, chi fosse interessato, stiamo pubblicando come Istituto Bruno Leoni nella collana di BL Libri, a prendere un altro libro che si intitolerà Fuori strada, di John Taylor. John Taylor è un grande economista che ha dato un principio elementare in base a cui stabilire politiche dei tassi di interesse non generatrici di instabilità dei mercati, e vedrete che c'erano fior di economisti della scuola di Chicago, quella a cui appartengo io e mi sono formato io, ma non solo di quella, che negli anni hanno invano levato la propria voce. Per esempio l'ufficio studi della BRI, della Banca dei Regolamenti Internazionali, per anni a Jackson Hole, nella mitica conferenza che ogni mese di agosto viene convocata dalla Fed per fare il punto con tutti i maggiori banchieri centrali del mondo, nel 2002-2003 gli economisti di Basilea invano presentarono dei papers in cui ponevano il problema: ma dove stiamo andando con questi tassi di interesse di Mr. Greenspan così bassi e così generatori incentivi all'innalzamento artificioso della redditività del capitale finanziario? Però questo è uno degli aspetti del problema, e abbiamo con noi collegato un collega che Marco Cobianchi, giornalista del Panorama. Buongiorno Cobianchi. Buongiorno, buongiorno a voi. Che ha potentemente contribuito con un libro notevole, il libro si intitola Bluff, perché gli economisti non hanno previsto la crisi e continuano a non capirci niente. Comunque consente a tutti noi, riportando le diverse espressioni degli economisti o dei protagonisti del mondo degli affari e della finanza, di capire che è in realtà questo giudizio, che io considero un po' pesante nei confronti di coloro che non vengono ascoltati, nella media, nella stragrande maggioranza dei casi, però è fondato. Cobianchi, non siamo anche noi poi giornalisti che ce la prendiamo a mettere in berlina i professori, che dice? Ma questo sì, sicuramente c'è sempre un aspetto sadico nel nostro mestiere, quindi c'è sicuramente questa vena, però come dicevi a lei, il giudizio mi pare più che fondato. Io nel libro che ho scritto cito decine, se non addirittura qualche centinaia di dichiarazioni di economisti, sono i maggiori economisti italiani che lavorano in Italia o in America o altrove, che scrivono sui maggiori quotidiani italiani, i quali non hanno previsto la crisi. Ma attenzione, faccio un asterisco importante. Quelli più, come dire, più i pastaran della crisi hanno addirittura detto che non c'era la crisi, e questo mi pare ancora più grave. Cioè i maggiori economisti, la stragrande maggioranza, non l'ha previsto, e hanno detto addirittura che non ci sarebbe stata. Prima dicevano che era soltanto una correzione dei mercati finanziari, poi che non si sarebbe trasformata in recessione, che se anche ci fosse trasformata in recessione sarebbe stata limitata alla sola America. Insomma, è stata una cozzaglia di previsioni sbagliate, di opinioni fallaci. Devo dire che anche nei giorni nelle ore immediatamente successive alla decisione assunta di far fallire Lehman Brothers, quella di cui partiamo oggi celebrando l'anno di quell'evento, anche nelle ore immediatamente successive fior di economisti e editorialisti italiani preso una topica dicendo che anzi era un ottimo segnale che finalmente si dava ai mercati, che non si poteva andare avanti a salvare tutti impunemente. Esattamente così, questo dipende, discende, diciamo così, dall'ideologia o dalla teoria, chiamiamola meglio, schumpeteriana, in base alla quale se una banca non riesce a stare sul mercato è bene che fallisca, perché una più efficiente prenderà il suo posto. Questo è probabilmente, anzi diciamo certamente vero quando si parla di una banca, ma quando si tratta di, come avete detto voi prima da studio, di Goldman Sachs, di Merrill Lynch, di JP Morgan, cioè del cuore della finanza mondiale, questa teoria non funziona più. Ecco, secondo me gli economisti non hanno, come dire, calcolato bene le conseguenze delle loro opinioni. Professor Vaciago, la gente ascolta espressioni tecniche, ovviamente non tutti danno esami di economia o di politica monetaria, e quindi sente che viene offerta la liquidità sui mercati, che ci sono linee di credito garantite per cui si danno dei collaterali, si accettano dei collaterali dalle banche e gli si danno molti soldi. In realtà lo spieghiamo alla gente che sono tutti soldi che pagano loro, perché la creazione di base monetaria aggiuntiva attraverso tutti questi sistemi di finanziamento del mercato della liquidità interbancaria per ogni singola banca, accentandone collaterale e così via, non è nient'altro che creazione di moneta, cioè accensione di un debito sulle spalle di noi contribuenti, o no? Perché non dirlo mi sembra un po' un trucco, o crede che sbaglio, professor Vaciago? No, attenzione, la liquidità viene in gran parte creata con strumenti temporanei e quindi per definizione che si riassorbono da soli. Le banche centrali non aumentano il debito del paese, prestano liquidità alle banche per 10 minuti, 10 giorni, 10 mesi, e poi questa liquidità viene loro rimborsata. Quindi, per definizione, con questa creazione di liquidità non aumenta il debito del paese. Il debito del paese, quindi ciò che lasciamo in eredità ai figli da pagare, è cresciuto molto, ma lì è il governo che sta aumentando la spesa senza aumentare le tasse, e quindi sta lui, o salvando qualcuno dandogli soldi in eterno, però non temporanei. La liquidità è enorme, prima o poi si esaurisce, il problema vero è decidere quando, e quindi le banche centrali hanno iniziato a discutere di strategie di uscita da questa montagna di liquidità, la exit strategy di cui leggiamo già sui giornali. Quando sarà possibile tornare normali, cioè che la liquidità ritorna ad essere una percentuale fisiologica e non enorme come è attualmente del debito del paese. Attenzione che questo è un passaggio delicato, arriverà qualche momento nel 2010 e gradualmente torneremo normali con tassi a breve di poco superiori all'inflazione prevista, quindi tassi dell'ordine del 2-3% e non dello 0, come attualmente. Ma Sciandaro, c'è chi sostiene che siccome in Italia le banche, diciamo, si erano spinte meno avanti nella via della intermediazione finanziaria e della finanza ad alta leva più rischiosa e così via, in realtà noi ci troviamo a pagare un prezzo che non ci compete, perché altri grandi paesi, con l'America con il fondo TARP, che quello sì che è debito pubblico, la Gran Bretagna che ha dovuto intervenire nel capitale di molte banche, l'Islanda che praticamente è andata per aria integralmente e così via, noi paghiamo il fatto che di vivere in un contesto molto integrato dove davvero bisogna mettere mano al denaro del contribuente per molti anni, perché si è intervenuti nel capitale delle banche e magari non sarà troppo agevole uscirne troppo in fretta, ecco, per così dire, e noi invece paghiamo il costo di tutto questo. Ecco, a questa impostazione lei cosa risponde? È che paghiamo il costo di tutto questo non solo perché c'è l'integrazione, ma l'integrazione ha anche dei vantaggi di cui non bisogna mai dimenticare, ma anche perché abbiamo una struttura produttiva debole. Io voglio ricordare due cose. La prima è che il problema del cosiddetto declino industriale del paese è coevo alla crisi finanziaria. Il secondo dato è che le proiezioni sull'uscita in termini di crescita vedono paradossalmente il paese che ha causato, tra virgolette, tutto uscire più velocemente, verosimilmente, in maniera più brillante rispetto alla vecchia Europa. Ecco, quindi, io la devo interrompere su questo, perché mi sembra che questa, in sintesi, però è giusto che gli ascoltatori lo capiscono. Chi ha fatto molti guai non sta risolvendo, ma uscirà prima di noi. Noi siamo integrati, siamo più deboli degli altri, per questo paghiamo il costo anche di errori che noi abbiamo commesso meno, ma abbiamo il rischio di uscirne molto peggio e molto dopo gli altri. Allora, grazie in regia Giacomo Spunta, Alessandro Marco Tulli in redazione, a tutti i nostri ospiti, la linea Giornale Radio, appuntamento a domani. Mm.